soon as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci qui oggi ad Il Pane Rose, puntata dedicata a dei lavoratori che si occupano della cura dei nostri figli quando sono molto piccolini. Stiamo parlando di chi lavora negli asili, nella scuola materna, dei lavoratori dei servizi all'infanzia. Lunedì hanno scioperato, ieri hanno scioperato, è stato un bellissimo sciopero, molto partecipato. C'era stato giovedì un incontro a Palazzo d'Accursi in cui si erano ritrovati alcuni lavoratori dei servizi d'infanzia per chiedere che cambino le cose a Bologna. Bologna è una città dove ci sono tanti asili, sono tanti problemi, sia che coinvolgono i bambini che sono lì, sia chi lavora per loro. Abbiamo parlato con Nico Maman, l'ho incontrato domenica ad un incontro politico, a un congresso, eravamo lì. Lui fa parte dell'area, come me, della CGIL, il giornale di marzo, è un compagno, Nico lo conosco da tantissimi anni, il mio compagno, e visto che lui è tra quelli che hanno promosso questo sciopero, ho chiesto di parlarmi dello sciopero di lunedì. L'ho fatto prima, abbiamo parlato delle motivazioni di questo sciopero, abbiamo parlato di quello che spinge, che ha spinto i lavoratori a programmare questo sciopero a Bologna e tante altre cose. Adesso ci sentiamo un pezzo stupendo e poi ascolteremo Nico Maman, delegato della CGIL, della sinistra sindacale CGIL, che ci racconterà le ragioni di questo sciopero e le motivazioni e quello che i lavoratori che si occupano dei servizi all'infanzia vogliono dal comune di Bologna. A dopo. Presto vieni qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno però, domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore, a recitar le preghiere, la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Sgarrare, se no poi te ne facciamo pentire. Mettiti in fila e non... a qualche cosa devi pur rinunciare, in cambio di tutta la libertà che ti abbiamo fatto avere. Perciò adesso non recriminare, mettiti in fila e torna a lavorare. E se proprio non trovi niente da fare, non fare la vittima se ti devi sacrificare, perché in nome del progresso della nazione, in fondo puoi sempre dicare. Avanti, in fila per tre. Allora, siamo qui con Nico. Lunedì 7 aprile ci sarà lo sciopero dei servizi all'infanzia del Comune di Bologna. Tu lavori lì. Vorremmo capire, noi il Pane e Rose, cosa vi ha portato a questa scelta, a fare sciopero dei servizi dell'infanzia a Bologna, che teoricamente dovrebbe essere tra i posti migliori in Italia. Sì, ciao a tutti e a tutte, mi chiamo Nico Maman, sono un educatore degli asili nido del Comune di Bologna, sono un RSU per la funzione pubblica CGL. Allora, il malcontento nei servizi educativi, nidi e scuole dell'infanzia del Comune di Bologna si sente da molti anni. I peggioramenti in questi servizi comunali, stiamo parlando di servizi comunali, è un malcontento che si sente da molto tempo, perché i tagli che ci sono stati a livello nazionale, che poi è ricaduto, sono arrivati anche a livello locale, fanno sentire un drastico peggioramento delle condizioni di lavoro e quindi a cascata nelle condizioni, diciamo, educative, nella quotidianità del lavoro che facciamo. Le questioni che solleviamo sono diverse, dalla stabilizzazione dei precari, c'è una grandissima quantità di precari che lavorano in questi servizi che vorrebbero una stabilità. Sappiamo anche che a Bologna c'è un certo caro affitti, caro vita, e vivere da precari, magari facendo le giornaliere, diventa sempre più pesante e anche impossibile per potersi mantenere. Poi c'è una condizione anomala. Dallo scorso contratto nazionale, diciamo, si è istituita una condizione in cui si andrà a lavorare servizi con due contratti, un contratto di serie A e un contratto di serie B, un contratto che si chiama appunto di funzionari e un contratto di istruttori. Questo perché con appunto lo scorso contratto nazionale si è, diciamo, firmato il fatto che si debba passare per lavorare in questi servizi a funzionari, però fondamentalmente non sono stati messi i fondi per finanziare queste progressioni. Poi ci sono i problemi anche di personale carente, per esempio abbiamo tutto un problema rispetto al sostegno scolastico, al sostegno educativo per i bambini con bisogni specifici che appunto non vengono dati. E poi anche per delle condizioni strutturali delle scuole, degli asili, che hanno ormai decine d'anni, hanno bisogno di manutenzione. Queste problematiche riguardanti alla manutenzione portano anche delle problematiche riguardanti la sicurezza. Sulla sicurezza l'amministrazione vuole scaricare il peso sui lavoratori e le lavoratrici, e questo ha creato ulteriormente malcontento e disagio. Sono molti motivi e fondamentalmente si legano ad una questione fondamentale, i finanziamenti. Avremo uno slogan domani che è: l'educazione si deve finanziare, non si risparmia sull'educazione, e penso che appunto questo sarà il tema principale con cui scenderemo in piazza. Allora, la domanda scontata che ti voglio fare, che ti facciamo nel Pane Rose, è: qual è la percezione del clima tra i lavoratori? Che poi è la cosa più importante. Certo, sì, Siamo arrivati anche a questo sciopero perché da troppo tempo sentiamo quotidianamente lavoratori, lavoratrici che ci contattano e ci portano delle problematiche che vivono nella quotidianità. E mancate sostituzioni di personale assente, che per noi è un peso gravoso, questo solo per fare un esempio. E quindi a un certo punto ci siamo trovati nelle RSU con le diverse sigle sindacali. 6 sigle sindacali appunto hanno deciso di portare avanti questo percorso. Purtroppo i delegati di SGB non hanno scelto di stare uniti insieme a noi, quindi hanno fatto uno sciopero separato, e credo che appunto sia, diciamo, una perdita non aver fatto questo sciopero in maniera unitaria, farci vedere compatti contro questa amministrazione. Però il clima tra i lavoratori, appunto, si vede una rabbia, un malcontento, un disagio quotidiano, e per cui noi appunto abbiamo scelto di prendere questa strada. Abbiamo fatto giovedì scorso, il 3 aprile, un'assemblea nel cortile di Palazzo d'Accursia, molto partecipata. C'erano decine e decine di lavoratrici, lavoratori. Il clima che ho percepito era quello appunto di andare verso questo sciopero e farci sentire. Sicuramente negli anni abbiamo visto questi peggioramenti, i lavoratori e le lavoratrici l'hanno anche imputato, appunto anche correttamente, a delle perdite di potere da parte delle organizzazioni sindacali, che o non hanno fatto nulla davanti ai loro occhi oppure hanno fatto troppo poco. In questo modo noi abbiamo anche cercato di organizzare il più possibile lavoratori e lavoratrici anche non organizzati, o diciamo che per la prima volta si mettevano in gioco per fare qualcosa, proprio perché per noi è importante che ci sia il protagonismo di tutti dal basso per poterci organizzare e per fare anche pressioni affinché non ci siano accordi a ribasso, oppure appunto affinché ci siano veramente dei rappresentanti dei lavoratori che portano ai tavoli quotidianamente la voce dei lavoratori e delle lavoratrici di questi servizi. L'ultima domanda che ti faccio, noi facciamo sempre 3 domande ai nostri compagni che intervistiamo, è: cosa volete ottenere con questo sciopero? Allora, ci sono diversi livelli. Le questioni che dicevo prima riguardo appunto alle assunzioni dei precari, alle stabilizzazioni, alla richiesta di aumento del personale per sopperire a tutti i momenti in cui nei servizi c'è una riduzione del personale perché appunto non ci sono le sostituzioni o perché il personale viene spostato per coprire, diciamo, dei buchi in altri servizi, per esempio. Ha un vero coinvolgimento delle organizzazioni sindacali quando si parla di organizzazione del lavoro, di incentivi, eccetera. C'è stata anche un'apertura di voler andare a discutere del servizio di luglio. A luglio noi lavoriamo obbligatoriamente e incentivati. Questo sta portando negli anni, diciamo, ancora più malcontento, perché luglio è un periodo difficile, c'è caldo, i bambini sono stanchi, siamo stanchi anche noi perché veniamo da un anno lungo e faticoso, e quindi anche lì la richiesta è di avere un maggior incentivo e andare verso una maggiore volontarietà per lavorare in quel periodo. Ma siamo anche convinti che poi non basta soltanto il piano locale. Come enti locali siamo senza rinnovo del contratto nazionale, perché il governo metteva pochi spicci per integrare, per rinnovare appunto il contratto, e quindi c'è anche quel piano. E di sicuro anche la questione appunto delle progressioni, quindi portare tutti quanti i lavoratori e lavoratrici nella categoria dei funzionari, ci deve essere appunto una spinta, una richiesta e una lotta contro questo governo perché ci metta dei fondi. E quindi speriamo che questo sciopero sia anche un pungolo e una spinta affinché si faccia una lotta nazionale degli enti locali per avere un contratto nazionale dignitoso che recuperi effettivamente l'inflazione, perché si sanino tutte quelle normative, quegli articoli nel contratto nazionale che permettono appunto di avere i passaggi, le progressioni, e quindi appunto per avere degli investimenti in generale nei servizi, per avere dei servizi pubblici per tutti e di qualità. È uno scandalo, l'abbiamo visto tutti quanti e tutti nei giornali, tra i giornali, che quando bisogna tirare fuori i soldi per le armi si fa in poche settimane. Noi siamo anni che chiediamo investimenti nella scuola, nell'educazione, come anche fanno i compagni nella sanità, e questo è la risposta che ci troviamo a questa richiesta: è non ci sono i soldi. I soldi ci sono, si devono trovare per i servizi essenziali. Grazie mille Nico, e speriamo che questo sciopero riesca e si estenda a livello nazionale. Grazie. Io auguro veramente a questi lavoratori di vincere questa battaglia, perché oltre al fatto che è giusto che loro rivendicano tutte queste cose che avete sentito da Nico, ricordo a tutti che chi si fosse perso la puntata, si fosse collegato solamente adesso durante l'ultimo pezzo, abbiamo intervistato Nico Maman, delegato della CGIL, della sinistra sindacale della CGIL, della funzione pubblica, rappresentante dei lavoratori e dei servizi all'infanzia, che lunedì hanno fatto sciopero e lui ci ha spiegato le ragioni di questo sciopero. Potete trovare nella pagina del Pane Rosa il podcast o nella mia pagina Facebook, vedo che molti ormai seguono più me che la pagina del Pane Rosa. Io vi invito comunque a seguire sempre la pagina del Pane Rosa, certo clicco anche nella mia pagina Facebook la puntata in podcast, ascoltatela perché Nico dice delle cose interessantissime. Bologna, così come Reggio Emilia, è tra le città in Italia dove gli asili nido sono dei posti paradisiaci, sembra, invece non è così. Nico ci ha spiegato che anche in quei luoghi di lavoro, dove dovrebbe esserci la tranquillità, dove chi ha a che fare con i nostri figli dovrebbe essere tutelato, coccolato, perché loro hanno a che fare con il nostro futuro, dovrebbero essere ben pagati, dovrebbero essere tranquilli, dovrebbero vivere in condizioni di sicurezza, eppure non è così. Ha spiegato benissimo, Nico, come anche lì stanno facendo di tutto per abbassare i salari attraverso mille meccanismi, dovuti anche degli errori sindacali, bisogna dire la verità, di accordi in passato che sono stati accordi che alla fine non hanno portato i risultati che si aspettava. Oggi ci sono non delle gabbie salariali come in molti casi, ma ci sono dei lavoratori serie A e serie B che guadagnano molto meno ed è una cosa allucinante, visto che comunque svolgono lo stesso lavoro. E c'è una difficoltà a progredire, lo spiega benissimo Nico, a livello economico per passare a funzionari, ma soprattutto c'è una precarietà che incombe in una città come Bologna, in cui il costo della vita è altissimo. Avete letto sui giornali tantissime storie di lavoratori che posti pubblici, infermieri, OSS, ma tantissimi lavoratori che scelgono di tornare giù, si licenziano, hanno vinto dei concorsi, vengono a lavorare a Bologna. Una volta era il sogno vincere un concorso nella sanità o in altri settori e invece tornano, si licenziano da posti pubblici, tornano giù a casa perché non si possono permettere di vivere. Questa città tratta in questa maniera chi lavora con i nostri figli, con il futuro di questo paese. Io vorrei capire che testa hanno questi politici, se trattano così male chi dovrebbe essere invece trattato con i guanti bianchi, visto il lavoro che fanno, così come succede agli infermieri, ai medici, che dovrebbero essere tranquilli, perché svolgere quel lavoro così importante di responsabilità serve tranquillità. Cioè tutti i lavoratori dovrebbero avere tranquillità e sicurezza, ma quando si parla anche delle strutture che cadono a pezzi a Bologna, vediamo questa città che si ristruttura tutta, però poi alla fine ci sono tantissimi lavori che andrebbero fatti in questi asili che non vengono effettuati. Lo diceva Nico. Lavorare a luglio e i bambini farli stare lì stressati insieme a loro che sono stressati, situazioni veramente difficili. Ecco, lo sciopero è dovuto e giusto, io spero che ottengano dei risultati, ma Nico lo dice chiaramente, questa è una questione più generale. Servono i soldi, servono i finanziamenti, serve che il governo faccio una politica di aiuti e dire basta alle armi, alziamo i salari, mettiamo gli investimenti nello stato sociale, scuola, sanità, pensioni vanno incentivati. Ecco perché Nico ha ragione, speriamo che questo sciopero di Bologna possa essere qualcosa che spinga altri lavoratori in tutta Italia a scioperare contro i comuni, contro le regioni, ma contro questo governo che fondamentalmente è anche il problema principale, perché non ci sono soldi dedicati a queste questioni come il salario dei dipendenti pubblici, le strutture dove stanno i nostri figli, dove vanno, dove le strutture dove andiamo a curarci e tutto il resto. Ecco, io auguro buona fortuna a questi lavoratori, vi seguiremo tutte le vostre battaglie e saremo sempre con voi. Ecco, io spero che siamo stati tutti solidali, che oggi chi purtroppo ha avuto dei problemi a portare i figli a scuola non si è arrabbiato con questi lavoratori e capisca che quello che stanno facendo loro lo stanno facendo anche per noi, oltre che per loro. Ecco, salve a tutti e alla prossima puntata. Orgoglioso de estar. Orgoglioso de estar. mentre